già fammi di palma e volto pian, fammi di palma e volto pian, fammi di palma e volto pian, in gamba e sbucurra. Già fammi di palma e volto pian, fammi di palma e volto pian, fammi di palma e volto pian, in gamba e sbucurra. Meschidensi di tutti la ruga, ci priamo gli scutozzi per donno slave tu vuoi pescita, già pomi a plas e bu, in palma e volta via, già tu già pomi di palma e volta via, pomi di palma e volta via, pomi di palma e volta via, non da me sbucura, già tu già pomi di palma e volta via, pomi di palma e volta via,